America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, chissà che non li abbiate riconosciuti, sono i Simpson e non è che voglia partire questo venerdì facendovi degli indovinelli, però un paio ve li farò. Proviamo quest'altro spezzone. The father, bare necessities, the simple bare necessities, forget about your worries and your strife. Beh, di nuovo l'avrete capito, Walt Disney, il libro della giungla. E sentiamo questo. I just love finding new places to wear diamonds. Marilyn Monroe, agli uomini piacciono le bionde. Beh, potrei continuare con centinaia di film, spezzoni, produzioni televisive, cinematografiche che, devo dire, coprono una buona parte della storia del cinema. Immaginate di avere migliaia e migliaia di prodotti di questo genere che sono raccolti sotto uno stesso ombrello. Ebbene, è proprio quello che capiterà dopo la grande notizia che abbiamo avuto ieri della fusione tra la 20th Century Fox con Walt Disney. Hanno fatto un accordo, Walt Disney comprerà tutti gli asset cinematografici e televisivi che hanno a che fare con lo spettacolo, attenzione, della 20th Century Fox, per 52,4 miliardi di dollari. Se a questo si aggiunge il debito, l'operazione ammonta a 66,1 miliardi di dollari. Per darvi un'idea delle proporzioni, per noi una manovra importante a livello nazionale per rimettere un pochino a posto il nostro disavanzo si aggira intorno ai 30-35 miliardi, perché sennò sarebbe troppo. Ecco, qui stiamo parlando di quasi il doppio. Bob Iger, amministratore delegato della Walt Disney, ha deciso così di accettare un overture, perché sembra che l'approccio iniziale all'abboccamento sia venuto dalla 20th Century Fox, che, attenzione, è controllata da News Corp, che è uno dei più grossi conglomerati dei media mondiali, perché ha proprietà in Inghilterra, in Australia e naturalmente in America, ed è controllato da Rupert Murdoch, grande tycoon dell'editoria globale. Ecco, dunque ci sono tutti gli ingredienti per fare di questa operazione un classico da cui probabilmente qualcuno deciderà di fare un film. Alla Disney arrivano complessivamente, partiamo per ordine, lo studio cinematografico 20th Century Fox, la società di distribuzione, la Fox Searchlight Pictures e Fox 2000. Ecco, questa è la struttura operativa con cui i film vengono costruiti, prodotti, ideati, distribuiti. Nel contesto di questi contenitori, soprattutto della 20th Century Fox, ecco che lì ci sono appunto pellicole come Avatar, Grand Budapest Hotel, Sopravvissuto, The Martian, Diritto di contare, e poi la parte televisiva, FX Production, FX21, che hanno portato sul piccolo schermo la celebre serie sulle spie russe negli Stati Uniti durante la Guerra Fredda, The Americans, il sitcom Modern Family, ma soprattutto This Is Us. This Is Us in questo momento è una delle serie televisive di più grande successo, perché è uno spettacolo che racconta la storia di una famiglia, un misto di lacrime, di tristezza, nostalgia, ambizione, speranza, sfide di ogni giorno che una famiglia normale si trova ad affrontare percorrendo così il cammino verso la crescita. Some folks think that there might be more than one Spider-Man. What do you think? One guy or many? Ecco, qui parliamo dell'Uomo Ragno, lo avrete riconosciuto, i supereroi della Marvel, ecco, tornano sotto una casa comune. E la Marvel era stata comprata da Disney nel 2009 per 4 miliardi di dollari. La Fox però aveva siglato un accordo di licenza che le dava l'utilizzo di alcuni di questi personaggi. Ecco, con questa operazione di nuovo tutti tornano insieme. Che cosa resta fuori da questa piattaforma? Resta fuori Fox News. Ve lo dico perché non è un fatto casuale. Come sapete, Rupert Murdoch è molto amico di Donald Trump. Avere Fox News per Trump è una sicurezza. E dunque chissà che in questo modo Trump magari possa chiudere un occhio su quelle che possono essere le riserve delle autorità antitrust a dare l'ok a questa operazione. Ecco, finora vi ho parlato così del content, di quello che rappresenta questa operazione rivoluzionaria dal punto di vista, diciamo così, pratico. Però c'è una strategia dietro. Non so se funzionerà nel lungo termine, però Disney e la 20th Century Fox ci stanno provando, perché questa operazione è l'equivalente di un ruggito di orgoglio che ha raggiunto anche i piani alti dei grandi dell'high tech. Qual è l'obiettivo vero? Bloccare o almeno arginare la crescita torrenziale distruttiva per molti settori di Netflix, Amazon, Apple, Google, Facebook e altri minori che stanno letteralmente, come naturalmente sapete, conquistando il mondo. C'è infatti un allarme rosso su ogni fronte perché i grandi dell'high tech si stanno mangiando tutto. Amazon, per esempio, sta già attaccando direttamente il settore dell'abbigliamento e soprattutto stanno divorando ferocemente il settore della produzione e distribuzione di content. E dunque, ecco qui il ruggito, ecco qui i vecchi leoni come Fox e Disney, che certo non possono neanche immaginare o considerare da essere ingoiate dalle nuove grandi di Silicon Valley a nord, perché Hollywood è a sud, senza vendere cara la pelle, una battaglia tutta californiana. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. Ecco, Star Wars, vi parlavo di content. Beh, finora, come sapete, molti dicono cash is king, il contante è sovrano. Beh, qui è content che diventa king. E il king delle due aziende, il re delle due aziende, diventa addirittura imperiale quando sono combinate. Insomma, oggi è una giornata rivoluzionaria sia per Hollywood che per la Silicon Valley. Digerire tutto questo non sarà facile. Ci sono anche le autorità antitrust, come vi dicevo, che metteranno il naso, perché come possono dire no a Verizon, Time Warner, di cui vi ho parlato varie volte, e sì a Disney, Fox, News Corp? Ma un'altra curiosità: la moglie di Steve Jobs, con la vendita di Pixar, oggi è il maggior azionista di Disney. Ma i Murdoch incalzano. Chissà, forse le strade delle news, della sinistra e della destra e della vecchia economy con la nuova convergono. Basta che sia possibile fare un bel po' di soldi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, canzone natalizia, Elvis Presley, il grande Elvis. If every day was like Christmas. Hear the bells saying Christmas is near. They ring out to tell the world that this is the season of cheer. Singing sweetly somewhere, and a glow fills my heart. I'm at peace with the world as the sound of their singing fills the air. Oh, why can't every day be like Christmas? New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!